Friuli nel mondo, trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione il soprano Maria Moreale Pozzi, il coro di San Lorenzo del Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio, il complesso folcloristico udinese. Dizione poetica di Ottavio Valerio. Saranno eseguite villotte popolari e musiche originali di Arturo Zardini e Luigi Garzoni. Saluto al Friuli, dai monti sino al mare. Presso il mare il sangue dei martiri, sui monti il loro altare. E il saluto, o friulani che ci ascoltate, della vostra gente. La voce si direbbe delle acque che solcano le vallate tra l'Isonzo e la Livenza, del vento che scende dalle Alpi e risale dalla marina di Grado e di Trieste. È il saluto affidato per la prima volta a un nuovo ente, Friuli nel mondo, che si propone il collegamento, il censimento, l'assistenza dei dispersi in ogni continente. Impresa difficile, ma superabile solo che voi sorreggiate il nostro sforzo, rispondendo al nostro invito. Mandateci indirizzi, notizie, richieste di informazioni. Siamo a vostra disposizione. L'idea, accarezzata da anni, ha trovato finalmente il terreno per germogliare in un'Italia che risorge virilmente dalle immeritate sventure. Autorità ed istituti udinesi e goriziani, sorretti dai parlamentari e dal governo, hanno potuto gettare oggi i piloni di un ponte ideale che ci congiungerà, nel proposito di ravvivare dall'una all'altra sponda l'affetto per la patria comune. Ospiti e naturalizzati in paesi dove attingete insieme col pane la gioia di vivere, continuate da buoni, leali cittadini nelle vostre attività professionali e civili, ossequienti alle leggi del popolo che vi accoglie. Ma non dimenticate, non dovete mai dimenticare la casa e la chiesa dei padri, il cimitero dove essi riposano, il profilo dei monti della terra che vi invia il presente messaggio, nella speranza di rinnovarlo periodicamente. Eccovi ora una limpida voce che vi ricorda l'anima malinconica della Carnia. Dalla voce della soprano Maria Moreale Pozzi ascolterete Alvaiva Lusoreli e I soi stade a confessarmi.